Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 20 gennaio 2015, Europa e Italia accelerano sulla salute delle acque. Un mezzo passo in avanti. Lo stato di buona salute delle acque europee, fissato dall'Unione per questo 2015, non è stato ancora raggiunto, ma la situazione complessiva migliora e finalmente anche l'Italia ha adottato la pagella europea per il monitoraggio di fiumi, laghi o sorgenti. All'appello mancano ancora alcune regioni, ma lo strumento, sperimentato a partire nel nostro paese dal 2011, ha oramai buona diffusione. Per la maggior parte degli specchi o dei corsi d'acqua in Italia è stata compilata una scheda che permette il confronto con altri paesi europei. Ora però l'Italia dovrà recuperare il tempo perso e passare dal monitoraggio al miglioramento effettivo. Fin qui la notizia del 20 gennaio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. L'Unione Europea ha stabilito il target di buona salute delle acque entro il 2015, ma tutti i paesi sono in ritardo. E così il commissario europeo all'ambiente, lo sloveno Janez Potočnik, ha annunciato una blueprint, cioè una strategia apposita da realizzare entro la fine di quest'anno. La situazione dell'Italia nell'analisi di Romano Pagnotta, ricercatore dell'Istituto di Ricerca per la Salute delle Acque, IRSA-CNR. Buona salute significa il raggiungimento di uno stato misurato attraverso parametri specifici, in particolare parametri biologici. Le acque delle varie nazioni devono raggiungere il secondo livello di qualità, la classe buona, perché così è previsto dalla direttiva quadro. In Italia siamo leggermente indietro, la direttiva doveva essere recepita entro il 2003, l'abbiamo recepita nel 2006, abbiamo qualche difficoltà per quanto riguarda l'implementazione della direttiva, in quanto abbiamo una situazione dal punto di vista della gestione dei problemi un po' più complicata rispetto ad altri paesi. Stiamo cercando di recuperare molto del terreno perso all'inizio, in particolare per la classificazione. Noi adesso abbiamo un problema di classificazione delle acque. Per poter intervenire bisogna classificare, conoscere per deliberare, diceva un grande statista. Se dovesse indicare una cattiva abitudine degli italiani nella gestione delle acque... Ma diciamo una scarsa considerazione per la risorsa, quindi un utilizzo un po' dissennato, questo vale sia a livello privato, quindi a livello del singolo, e sia a livello dell'industria, diciamo della attività produttive. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna-Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete potete scriverci all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.